I nomi delle cose, lo spazio di riflessione della coordinamenta femminista e lesbica. Ciao a tutte e ciao a tutti. Siamo qui per la seconda puntata delle conversazioni femministe, delle riflessioni su alcuni punti che ci sembrano molto importanti rispetto al discorso politico femminista e al discorso politico generale. Oggi vorremmo parlare del consenso, della teoria del consenso, che è una teorizzazione che va, diciamo così, per la maggiore sia nel mondo femminista ma anche nel mondo generale sociale. È stata assunta e viene propagandata come una teorizzazione di buonsenso che permette di migliorare tantissimo i rapporti fra le persone. Passo la parola a Noemi perché vi racconterà un'esperienza personale che è molto significativa. Allora, appunto, che cos'è il consenso? Il femminismo ne parla da tempo, come diceva Eli, e ammetto che mi sono imbattuta in questo argomento perché appunto mi è capitato, essendo madre, di cercare conferme, consigli per svolgere il ruolo materno, ovviamente, e quindi cercando informazioni sul parenting mi sono imbattuta appunto in consigli pedagogici su come insegnare il consenso ai bambini e quindi come si insegna questo consenso, cosa dice ai bambini. L'esempio che mi ha colpito all'epoca fu questo: un genitore, per insegnare il consenso al proprio figlio, il rispetto del corpo e la consapevolezza, deve chiedere ogni volta al bambino se può fargli una carezza, se può baciarlo, se può toccarlo, se può abbracciarlo, in modo da non imporsi sul suo corpo, di non sovradeterminarlo, insegnandogli, secondo questa teoria, la consapevolezza di se stesso e quindi anche di quello che vuoi. Tutto questo nasce, secondo questa teoria, dall'esempio per cui se c'hai uno zio, una zia fastidiosa di quelle, insomma, un po' da film all'italiana, da commedia all'italiana, no? Che ti sbaciucchia, dammi un bacio, che ti chiede per forza ti estorce in qualche modo un gesto affettuoso, che poi non lo è per il bambino in quel momento. Allora, come si fa a evitare che il bambino subisca queste cose che a quanto pare generazioni e generazioni hanno subito? E appunto insegnare sia agli adulti che il bambino non è lì a soddisfare i propri i desideri di gentilezza verso l'adulto, e il bambino a prendere, insomma, consapevolezza di se stesso. Ma questo succede, cioè viene insegnato anche nei rapporti fra bambini? Certo. Cioè anche i bambini dovrebbero comportarsi così fra di loro quando vogliono fare qualche cosa? Non soltanto con gli adulti. Sì, quello poi diventa un comportamento che dovrebbe essere insegnato anche nelle scuole, grazie a ciò non tutte quante, in cui tra bambini si prendono le misure, quindi ci si chiede: ti posso dare un bacino? Ti posso dare una carezza? Cosa che secondo me forse manco avviene, perché non credo che ci sia consapevolezza così profonda del proprio corpo quando si è bambini. In realtà ci si tocca molto e si è molto fisici. Certo, quindi è vero, il problema è vero. Non è la fisicità in realtà quando si è molto piccoli. Certo. E poi secondo me, per evitare che zia Maria o zio Mario ti vengano a molestare con baci e spupazzamenti, secondo me basta urlare un no e prendersi il fatto che per zio Mario e zia Maria sarai antipatico, e va bene, uno continuerà a vivere anche pensando che gli zii pensano che tu sei antipatico. Forse è quello che dovremmo insegnare, cioè appunto la risposta è reagire, ribellarsi, non cioè non essere ovattati, anche perché Infatti stavo pensando questo, no? Che parlando del consenso, l'attenzione è impostata su quello che agisce, cioè chi ha voglia di fare una cosa, tipo sia bambino sia adulto, chi ha voglia di fare una cosa dovrebbe chiedere: posso farla? Me lo permetti? Hai voglia? Che dici? E compagnia bella. E il destinatario, la risposta dovrebbe essere data dal destinatario, mentre forse, cioè, noi ne abbiamo discusso tra di noi e penso che sia questa anche in autodifesa femminista, tra l'altro, che la risposta non sia questa, bensì la risposta sia l'autodeterminazione, cioè è il destinatario che deve essere in grado e deve avere la determinazione, la forza, deve essere, come si dice, che cosa che non è facile assolutamente, perché questo è molto più difficile che chiedere. Determinarsi e rispondere adeguatamente è molto più difficile. Quindi è il destinatario che si deve autodeterminare e dire quello che vuole o quello che non vuole. Sì, perché poi si arriva un po' su un altro piano, che è quello più, diciamo, politico e istituzionale, ovviamente, perché appunto finché abbiamo parlato dei bambini si critica la bella lavanderina che ti chiede dai un bacio a chi vuoi tu e tu adesso stai estorcendo un bacio a uno sconosciuto che non vorrà essere baciato. E quello è un piano che è il piano dell'educazione, della formazione, che è sicuramente un piano molto importante per il neoliberismo ad oggi. L'altro piano è quello che invece su cui il neoliberismo, insomma, gioca vincente, insomma, non ha problemi. E cito per esempio un trend topic che era quello del titolo 9 aggiornato da Obama nel 2016, in cui si parlava di consenso. Perché Obama appunto prende questo documento e lo aggiorna? Lo aggiorna perché parlava fondamentalmente di protezioni contro atti discriminatori che stavano all'interno delle scuole di vario livello. In quel periodo, all'interno di campus universitari, avvengono dei de delle, ci sono delle violenze, scattano dei casi. E quindi cosa fa Obama? Obama introduce le norme di tutela del gender non conforming, quindi norme che tra l'altro è definita persino dai bravi democratici come una norma timidissima dove non si aggiungeva assolutamente nulla alla legge che già c'era dal 72. Mi ricorda un po' la legge Zanna questa cosa, comunque, adesso che ci penso Sì, così hai su due piedi, ragione. vabbè. Appunto, quindi il modo per Obama di ovviare la violenza all'interno dei campus universitari, dove appunto succedevano situazioni per via delle feste, delle confraternite, eccetera. Come si può conformare la libertà sessuale per evitare che ci sia problemi? Cosa avviene? Avviene che per l'autonomia che hanno 20 campus e sono privati, ogni campus elabora un foglio di consenso sessuale da firmare, un contratto, un mini contratto in cui prima di avere una relazione sessuale con qualcuno, tu firmi il foglio di consenso per evitare fondamentalmente gli scandali e la cattiva pubblicità, ovviamente, perché non è che questi fogli servono a rompere qualcosa anche nel pratico. Però è assurdo pensare che appunto lo strumento che viene pensato per combattere la violenza di genere è lo scarico legale nei confronti dei problemi che si possono venire a creare. E di questa norma se ne è parlato tanto, soprattutto perché un non mi ricordo quale politica, di area trampiana, abroga poi questo piccolo cambiamento che ha fatto Obama. Quindi non è che Obama ha fatto il foglio di consenso, però da questo lavorio politico ed istituzionale di Obama in realtà piano piano si estende fino a diventare un documento, un contratto di sesso, per cui ne parlavamo anche prima, nel momento in cui tu firmi un contratto sei legata a quel contratto, per cui tu 6 ore prima devi decidere se fai sesso, se non fai sesso, come lo fai, come non lo fai, perché ovviamente bisogna mettere sul tavolo tutto quanto, quindi non capisco come possa poi esserci dell'autodeterminazione o della libertà sessuale nella propria espressione, nel viversi il proprio desiderio con un contratto. Certo, ma infatti il problema di fondo è che questo modo di porsi e questo modo di muoversi è molto funzionale alla società neoliberista in cui noi siamo calate. Sì, no, infatti secondo, perdonatemi la pronuncia, Byung-Chul Han, che è un filosofo coreano che studia la differenza tra la libertà e l'individualismo neoliberista, che secondo lui non è altro che un aspetto della società mercificata. Lui dice che il neoliberismo costruisce una società che instilla nei subalterni la paura del dolore e del conflitto e quindi li convince a cercare dei palliativi, altre alternative, per allontanarsi dal conflitto, dalla controversia, per cui paura di affrontare tutto ciò che è altro. E ciò che fa male quindi deve essere possibilmente eliminato, fittiziamente eliminato, e perché non si impara a cambiare ciò che non va, ma mettere in atto i meccanismi di autocontrollo, come se il male del mondo dipendesse da noi e non fosse un problema di natura politico-sociale. E quindi questa paura del dolore porta al conformismo, a cercare regole identiche che appianano tutti i dissapori tra genere, che allontanino le brutte sensazioni, che evitano le frizioni nelle relazioni, e quindi si abbandona completamente a un sistema delle imposizioni, un sistema di potere che si erge a tuo difensore. La teorizzazione del consenso, infatti, apre alla delega. Praticamente ogni volta che qualcuno deve chiedere, significa che c'è qualcuno che deve permettergli di fare qualche cosa. E è chiaro che questo, per esempio, nei bambini, come ha detto Noemi, viene impostato nei rapporti interpersonali, però instilla un'abitudine, cioè l'abitudine di chiedere, l'abitudine di avere un nulla osta per fare qualcosa. Mentre al contrario l'autodeterminazione, se fosse insegnata nelle scuole, insegnerebbe ai bambini a dire chiaramente quello che uno vuole, quello che non vuole, quello che desidera, quello che non desidera, e a fare delle scelte di conseguenza. Questo per il sistema di potere è molto pericoloso, cioè insegnare alle persone ad autodeterminarsi è una cosa, insegnare alle persone a chiedere il permesso di fare è una cosa che invece gli fa molto più comodo, anzi è proprio fondante, no? Oltretutto, se la risposta è no, questa presuppone l'obbedienza rispetto a un certo tipo di risposta. È un'abitudine anche a delegare le scelte a chi molto probabilmente ne sa più di noi, è più esperto, più preparato, tecnicamente è una persona che ha studiato le cose, e ad accettare questa risposta. È tutto il contrario di quello che io parlo dell'insegnamento perché quello che ha raccontato Noemi è particolarmente illuminante, però è chiaro che è la costruzione dell'individuo del futuro, no? Cioè, invece di insegnare a pensare con la propria testa, si insegna a chiedere. No, è anche, cioè, nel senso, secondo me, poi non lo approfondiremo oggi perché è un altro discorso, però secondo me bisogna mettere un po' più a fuoco quello che viene cioè quello che è l'educazione e l'istruzione dei bambini, perché secondo me all'interno di queste cordate pedagogiche, psicologiche, si trovano tanti piccoli nodi, in cui il potere ha capito che si comincia da lì. Certo, infatti non è un caso che la legalità, una volta si insegnava l'educazione civica, Sì, adesso si insegna la legalità. si insegna la legalità, che è una cosa completamente diversa, no? E, oltretutto c'è anche un altro aspetto molto importante, si instilla la paura. Cioè, si instilla la paura di non essere in grado di soddisfare le richieste che vengono portate, si instilla la paura di non saper scegliere, la paura di sbagliare, la paura anche di non essere perfetti, perché questo tipo di società ci convince che dobbiamo essere sempre sanissimi, che dobbiamo essere sempre bellissimi, che dobbiamo essere sempre prontissimi, che dobbiamo essere e che comunque. Comunque, se non lo siamo, è colpa nostra. Quindi, se noi ci comportiamo male, perché per questo, quest'altro motivo, è perché non abbiamo chiesto, non abbiamo aspettato la risposta, non abbiamo saputo fare quello che l'altro si aspettava. E questo anche nei rapporti interpersonali è un grande problema. Un grande problema che dà gli effetti assolutamente contrari a quello che il politicamente corretto vorrebbe, no? Cioè che vorrebbe una società pacificata, una società senza conflitti, una società tranquilla in cui ognuno rispetta gli altri, e invece crea degli individui che non si sanno rapportare con gli altri, che sono sempre in sofferenza nel rapporto con gli altri e che poi quando non ce la fanno più si sfogano magari all'americana, perché la società americana in questo senso ha camminato molto più della nostra per tanti anni. All'americana vanno nel campus scolastico, nell'ufficio, nel supermercato, sotto casa e sparano perché non ce la fanno più. Cioè è una sopportazione arrivata al limite di un sistema che ci rende profondamente infelici, cioè sempre inadeguati rispetto alle richieste che abbiamo di fondo. Sì, è un, e si fa pensare sempre appunto che il punto sia centrale sia quello del consenso, nel senso che ci si difenda chiedendo appunto il permesso di poter fare qualcosa onde evitare un problema. Però in realtà è proprio lì che il problema si viene a creare perché ci si mette nella condizione non di lasciare spazio all'altro o all'altra di autodeterminarsi, di definirsi, di prendere possesso di quello che si è e di prendere spazio quindi, ma si fanno una serie di domande a cui uno risponde a crocette e a seconda poi del risultato avvengono delle cose, sembra un libro game, non so se li conoscete, sono quei libri dove tu hai dei vari scenari e scegli tu a seconda della tua risposta dove andare a finire con la storia, però è già tutto scritto in realtà. Certo, e oltretutto c'è anche un problema che crea un'incapacità nei rapporti interpersonali che porta all'uso esagerato, esagerato dei sistemi tecnologici. Perché? Perché nel col computer, con i vari sistemi tecnologici, il rapporto non è più diretto, è sempre mediato dal mezzo tecnologico ed è responsabilizzante, può essere anche anonimo. Quindi questo tipo di distanziamento, perché in effetti è un distanziamento sociale, quello che hanno cercato durante la pandemia, che volevano a tutti i costi che fosse rispettato, e che tutto sommato nella popolazione è passato come messaggio, non è altro che questo sistema di gestire il sociale, che è di rapporti distanziati e mai, mai diretti, non ci si accapiglia più neanche nelle assemblee per una visione politica diversa, cioè non si arriva più alle mani, si cerca sempre di mediare, mentre arrivare alle mani molto spesso può essere utile. Può essere utile. Sì, sì, sì. E quindi per concludere, insomma, che non è un discorso ovviamente concluso, ma erano degli spunti che volevamo condividere con voi. E davvero pensiamo quindi che il consenso sia uno strumento per un futuro migliore? E parafrasando un po' Foucault, che diceva a domani il buon sesso, a me sembra davvero un trappolone dove ci stiamo autoconvincendo che se mi comporto bene questo futuro sarà ordinato. E sento molte madri, ritornando insomma al motivo per cui ero venuta a contatto con questo mondo, e di giustificare approcci pedagogici super impostati, come appunto questo sul consenso, in virtù del fatto che stanno crescendo generazioni migliori. Va bene, allora vi salutiamo e fra una settimana ci risentiamo continuando il discorso in una veste femminista, cioè quanto tutte queste cose poi hanno significato nel femminismo e che cos'è il femminismo adesso. Ciao! Ciao!